nel bosco laggiù, dove il cervo felice sembra. La limpida è l'aria, la nube non c'è e lo zeffiro soffia. Voglio andare per sempre laggiù. Guardato le stelle laggiù, pensando tra me che la gloria del cielo, della terra splendeva maggior. Cervo radioso quel sol, voglio andare per sempre laggiù.